peso la tua allegria, un diamante o uno specchio tu, la città è confusa e tu, una montagna da scalare. Questo vento sfiora il letto e l'aura, non uccidermi domani. Forse il tempo lo saprà, se il tuo cuore lo vorrà, abbandonarmi questo no. Aspettami, non fuggire, non trovarti, che male farò. Aspettami, la tua porta ancora chiusa, e tu amore dove sei? Il mio cuore sta battendo e tu lo sai. Aspettami, sto cercando solo te. Torno a casa e così mi addormento un po', qualche suono poi risveglierà. Una canzone sto scrivendo a te, forse un angelo poi passerà, forse il tempo lo saprà, se il tuo cuore lo vorrà, non abbandonarmi questo no. Aspetta, trovarti, che male farò. Aspettami, la tua porta ancora chiusa, e tu amore dove sei? Il mio cuore sta battendo e tu lo sai. Aspettami, sto cercando solo te. Pensieri, sfiori, notte, spada di mille, e non ci sei più tu. Dove sei? Anche il cielo stanotte